in primo piano. Buona giornata da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo come le notizie che avete ascoltato nel giornale radio poco fa sono poi sviluppate sui quotidiani che troviamo questa mattina in edicola. Il caos all'Italia, o perlomeno lo stallo, la trattativa difficile tra Alitalia e Etihad sono tra i titoli più importanti di parecchi giornali. Così anche, naturalmente, le vicende medio orientali. Allora vorrei cominciare però dalle questioni medio orientali, anche perché sono in una evoluzione continua, se così si può dire, con questa mini tregua di 12 ore. Avvenire, ad esempio, dedica il suo titolo principale proprio alla vicenda della tregua. Gaza: serve la tregua, ma parlano le armi. Israele accetta solo uno stop agli attacchi di 12 ore. E poi, nello stesso servizio che campeggia in prima pagina di Avvenire, troviamo anche un ulteriore passaggio per la vicenda dell'ISIS, cioè questo califfato che di stretta osservanza coranica, che ci sta prendendo possesso di aree sempre più vaste tra l'Iraq e la Siria. E l'ISIS adesso distrugge le moschee eretiche, quindi anche con una volontà, insomma, di distacco dai suoi stessi correligionari. E poi ancora, sempre su Avvenire, invece, la vicenda di Alitalia: sindacati spaccati, all'Italia a rischio. Questa è, diciamo, la lettura che molti giornali danno nella loro titolazione di prima pagina. Così, ad esempio, anche Repubblica: Renzi ai sindacati, sia all'Italia Etihad o 15.000 a casa. Le sigle si spaccano, nullo il referendum sull'accordo, sconcerto degli arabi. Del Torchio dice: nessun ultimatum, via libera intanto all'aumento di capitale da 250 milioni di euro. Così su Repubblica. Caos all'Italia, intesa a rischio sul Messaggero, sindacati spaccati sul referendum. E sulla Stampa: scontro tra i sindacati, all'Italia torna in bilico. Sono molti, naturalmente, i giornali che potremmo scegliere. Ci scuserete se, naturalmente, diamo una preferenza al nostro, cioè al Sole 24 Ore. Il titolo di Alitalia, oltre che in prima pagina, ha il servizio iniziale della sezione di finanza e mercati. Alitalia: sia all'aumento di capitale, l'assemblea dei soci approva il bilancio 2013, 569 milioni di perdite, e vara la ricapitalizzazione da 250 milioni di euro. Caio vota a favore ma rilancia direttamente con Etihad, offrendo circa 60 milioni in una NewCo, cioè sarebbe una società di nuova costituzione intermedia. Allora, Gianni Dragoni e in generale, insomma, sul Sole 24 Ore si dà ampio spazio non solo alla vicenda sindacale, caos al referendum sul taglia stipendi. È appunto il resoconto sulla consultazione alla quale hanno partecipato soltanto nemmeno il 27% degli aventi diritto. Gianni Dragoni, dicevo, dà ampio spazio soprattutto alle questioni interne alla società. In pratica, che sta succedendo? Sta succedendo che oltre alle tensioni sul lato sindacale, ci sono dei problemi proprio per il finanziamento, la copertura dei debiti pregressi di Alitalia, e quindi il passaggio, diciamo così, alla nuova compagnia con gli arabi. In primo piano. Bentornati alla nostra rassegna stampa, ancora una buona giornata da Mauro Meazza. Ci stavamo occupando, prima di ascoltare le informazioni, sulla viabilità della vicenda Alitalia. Come vi dicevo, la vicenda Alitalia, lo stallo su Alitalia, non solo dal punto di vista sindacale, occupa direi anche forse la maggioranza delle prime pagine dei giornali come titolo principale. Allora, che sta succedendo in Alitalia? Ci aiutiamo leggendo qualche passaggio dell'articolo di Gianni Dragoni oggi sul Sole 24 Ore. Che è successo ieri? Che l'assemblea degli azionisti di Alitalia CAI ha approvato il bilancio del 2013, risultano 568,6 milioni di perdita netta consolidata e un patrimonio netto negativo di 27,2 milioni, cifre, precisa Dragoni, che la compagnia però continua a non rivelare, e un aumento di capitale fino a 250 milioni di euro. Quindi è stato deciso una nuova iniezione di liquidità, ma non si sa chi metterà i soldi. c'è sempre lo stallo per le rigide condizioni indicate da Poste Italiane. E anche per questo Poste Italiane, come avete letto, come avete sentito in questi giorni, non intende partecipare a questo aumento a queste condizioni, ma ne pone delle altre. Anche per questo motivo è stato rimandato il via al contratto finale per la cessione del 49% della compagnia a Etihad Airways, cessione che, lo ricordiamo una volta di più, è quella essenziale per garantire comunque il prosieguo della compagnia. Ancora una lunga giornata, scrive Dragoni, per l'Alitalia, un passo verso l'orizzonte del salvataggio, ma non definitivo. E a rendere più incerta la situazione, lo scontro tra i sindacati al termine del referendum sulle intese aziendali che tagliano gli stipendi, come poi riferiamo anche sempre sul Sole 24 Ore, ed è poi il titolo, lo scontro tra i sindacati, che magari trovate più in evidenza in altri giornali. Ma appunto non è solo una questione sindacale, perché, come spiega Dragoni, la mancanza di coesione dei sindacati è un altro ostacolo all'intesa con gli Emiratini. Intanto si avvicina pericolosamente il termine di fine luglio che è stato indicato da James Hogan, l'amministratore delegato di Etihad, per stipulare l'accordo definitivo con Alitalia. Ecco, credo che questa ricostruzione di Gianni Dragoni, che trovate oggi sul Sole 24 Ore, sia sufficientemente chiara per affrontare, come dire, questo pasticcio, questo stallo in cui è finita la nostra compagnia di bandiera, forse dovremmo anche dire la nostra ex compagnia di bandiera in qualche modo, e che al momento appunto si dibatte tra tensioni sindacali e mancanza di finanziamenti che possano garantire, che offrire appunto ai nuovi soci, ai neosoci di Etihad, sufficienti garanzie. Vediamo invece tutt'altri titoli di apertura, come si dice in gergo, cioè i titoli principali delle prime pagine, cominciando dal Corriere della Sera. Sì, di Israele a 12 ore di tregua, l'abbiamo ascoltato anche dalla voce di Valentina Furlanetto poco fa nel corso del giornale radio. L'annuncio americano: si lavora per un vero piano di pace. Netanyahu che ha respinto però la bozza di Stati Uniti e ONU, poi c'è stata una prima apertura. Kerry intanto vede i ministri dell'Unione Europea. Anche sul Corriere della Sera la vicenda all'Italia in prima pagina: l'Italia Etihad a rischio, mediazione del governo, l'azienda preme sui sindacati. 250 milioni per resistere sono quelli che, di cui vi riferivo poco fa, dell'aumento di capitale approvato ieri. Una notizia di tutt'altra natura che riguarda l'università, la formazione, l'istruzione superiore, in prima pagina sul Corriere della Sera: il Politecnico all'inglese che spiazza il TAR. Le lezioni in lingua decise dai singoli corsi di laurea aggirano in qualche modo il divieto dei giudici. Facciamo un piccolissimo riassunto rispetto al servizio di Gianna Fregonara, che appunto occhieggia dalla prima pagina del Corriere della Sera e che poi prosegue ampiamente nelle pagine interne. Era successo che il Politecnico di Milano, una delle più prestigiose, se non la più prestigiosa università italiana, almeno per quanto riguarda la sua valutazione internazionale, aveva deciso di svolgere una gran parte dei corsi dell'università in inglese. Questa decisione era stata però bocciata ai TAR. Però che succede? Non può se sono i singoli professori che lo decidono, che decidono di tenere i corsi in inglese, ebbene questa non è una decisione che possa essere censurata dal tribunale amministrativo. Infatti, scrive Gianna Fregonara, la battaglia è persa ma la guerra è quasi vinta. Il Politecnico di Milano non può decidere di tenere tutti i corsi in inglese perché viola la Costituzione, il Regio Decreto del 33, la libertà di insegnamento, il primato della lingua italiana, e contravviene alle indicazioni della Crusca. Ma se a decidere di insegnare in inglese sono i professori di ogni singolo corso di laurea invece dell'Ateneo, allora si può fare. L'inglese, forse meglio il globish, cioè quell'inglese semplificato che sta diventando lingua franca dell'insegnamento scientifico, può diventare la lingua madre anche in una università italiana. Quindi in qualche modo viene aggirato l'ostacolo del primato della lingua italiana nell'insegnamento grazie a questa sorta di escamotage giuridico, escamotage che consente di schivare le ire delle recensorie dei TAR, rimandando appunto alle singole decisioni dei professori. La Stampa, dalla prima pagina della Stampa, tutto questo che vi dicevo sul Corriere della Sera. La Stampa dà sul scontro su Alitalia, scontro tra i sindacati su Alitalia che torna in bilico, Etihad dice è essenziale l'accordo di tutte le sigle, ma in prima pagina appunto un'altra indicazione che non trovate su altri giornali riguarda la fecondazione eterologa. Niente eterologa per le donne sopra i 35 anni, ci si riferisce alle indicazioni che il ministro della salute sta preparando per appunto disciplinare la fecondazione eterologa. Ricorderete, il divieto era caduto per decisione della Corte Costituzionale, e appunto all'interno Paolo Russo ci spiega che queste linee guida prevederanno tra l'altro che i figli con l'eterologa non potranno essere previsti per donne che hanno oltre 35 anni e compagni uomini di 45, non saranno ammessi più di 10 bimbi per genitore biologico, il quale dovrà restare anonimo salvo che non vi siano motivi di salute a consigliare il contrario. E poi in queste linee guida niente cataloghi dai quali scegliere occhi, altezza e magari quoziente intellettivo del donatore, e meno male che oso io, e via libera alla fecondazione assistita anche quando entrambi i coniugi sono sterili. Questa, scrive Paolo Russo sulla Stampa di oggi, la ricetta del comitato di esperti nominato dal ministro Lorenzin per evitare provetta selvaggia. Affretta il ministro perché la Corte Costituzionale si è già espressa più di 3 mesi fa sull'eterologa. Da quella sentenza potrebbero già nascere i primi bimbi di donatori esterni alla coppia. Questa è la definizione appunto di fecondazione eterologa. Questo sulla Stampa questa mattina in edicola. Riprendiamo un attimo invece Repubblica, perché oltre al titolo principale di cui vi davo conto poco fa, Renzi ai sindacati, sì all'Italia Etihad, questa mattina la papera sulla E la A di Alitalia che diventa E sta diventando un po' preoccupante, probabilmente è una voglia di fusione del nome già della compagnia. Allora, Repubblica ha come titolo principale: Renzi ai sindacati, sì all'Italia Etihad oppure 15.000 persone a casa. Le sigle si spaccano, nullo il referendum sull'accordo, ma poi di spalla, diciamo in buona evidenza, in copertina sulla prima pagina di Repubblica, un reportage di Federico Rampini, donne contro le ragazze che sfidano il femminismo. Che sta succedendo? In America è sorta una specie di community, per lo più su internet, di donne che ritengono il femminismo superato, anzi si battono in qualche modo contro il femminismo, si battono naturalmente con prese di posizione su internet, quindi è una battaglia più virtuale che reale. Naturalmente da questo anche le reazioni invece di quelle donne che ritengono il femminismo assolutamente essenziale. Basta femminismo, la sfida delle ragazze, ma le madri insorgono, la vostra è ignoranza. Sui social media, ci informa appunto Federico Rampini da Repubblica, è battaglia a colpi di selfie, cioè queste foto, questa sorta di autoscatti, di foto che di autoritratti che si postano, poi che si mettono poi sulla rete. Al centro ci sono i capisaldi del movimento di liberazione, un dibattito inconsueto sullo stato del soffitto di vetro. Soffitto di vetro, come sapete, è una definizione che si utilizza per dire che nonostante la parità formale non c'è ancora una parità piena tra uomini e donne, ad esempio sul posto di lavoro, sulle possibilità di carriera, anche sulle stesse retribuzioni. Ebbene, questo tipo di rivendicazioni antifemministe o post-femministe, ecco, sembra quasi rilanciare, appunto togliere come dire, sostanza a chi si batte contro a questo stato del soffitto di vetro. Di tutto questo riferisce questa mattina Federico Rampini su Repubblica. E sempre restando su Repubblica, una notizia che ci porta direttamente alla prossima interruzione: più di un giornale oggi nelle pagine interne si occupa del tempo. Il tempo qui a Milano e probabilmente in buona parte del nord Italia non è dei migliori, anzi è decisamente autunnale. Su Repubblica ad esempio, ma anche altrove, luglio sotto la pioggia, tutti i record di un'estate che sembra autunno. A Torino non c'è mai stata tanta acqua come quest'anno fin dal 1890. 93. A Milano precipitazioni così solo 30 anni fa. E nei prossimi giorni, ci segnala Valentina Cordon su Repubblica, sarà anche peggio. Adesso sentiremo poi dal meteo qual è la previsione almeno per oggi. Ma intanto appunto ci informano che perturbazioni e rovesci stanno colpendo o stanno per colpire tutte le città del centro nord. Nelle Marche ci sono stati più temporali che durante il mese di marzo, mese appunto tradizionalmente più piovoso. E come sapete tutto questo poi si riflette anche sul turismo. C'erano state anche delle lamentele degli albergatori che dicevano appunto ci voleva maggior precisione per quanto riguarda le previsioni meteo, altrimenti si rischia di danneggiare anche i brevi fine settimana passati altrove. E allora, dopo tutto questo, sentiamo proprio le previsioni del tempo. In primo piano. Bentornati e ancora una buona giornata da Mauro Meazza, grazie alla indispensabile assistenza di Pietro Lacorte. Siamo all'ultima parte, all'ultimo blocco di questa nostra rassegna stampa. Abbiamo parlato di Alitalia, abbiamo parlato anche di altre notizie che trovate su alcuni giornali questa mattina. Vi voglio segnalare una iniziativa editoriale particolare che è del Secolo XIX, quotidiano genovese, e che riguarda la Concordia, il viaggio di rientro della Concordia. Lo abbiamo ascoltato anche nel giornale radio. Domani è attesa al rientro al porto di Genova, dove poi sarà smantellata. Bene, il Secolo XIX, quotidiano genovese, decide di avvolgere in qualche modo la sua edizione in quattro pagine che finiscono per diventare appunto una inedita prima pagina, dove campeggia una grande, grande foto della Concordia e il lungo addio. La Concordia torna a casa, la nave della tragedia sarà davanti a Genova stanotte, all'alba la faranno lentamente entrare in porto. Per 22 mesi, scrive il Secolo XIX, sarà la memoria di un disastro e il luogo di lavoro per almeno 700 persone. La città si prepara a salutarla e a convivere con la sua presenza. Giorgio Bertone firma un commento in questa insolita, davvero insolita prima pagina: ora tocca a noi finire il big job, il gran lavoro, appunto, così era stato definito il lavoro di raddrizzamento e recupero della Concordia. In queste quattro pagine poi, che appunto avvolgono il Secolo XIX oggi in edicola, c'è oltre che una spiegazione di quello che succederà domani, i punti anche di osservazione di questo ingresso in porto davvero inconsueto di questa mega nave fatta galleggiare nuovamente grazie a questi cassoni che tutti abbiamo visto in televisione, sui siti. E ci sono anche un po' di resoconti di punto della situazione, tra cui appunto l'iniziativa di pubblicare i 33 nomi delle vittime, di coloro che hanno perso la vita nel naufragio della Costa Concordia, e poi i passaggi salienti di questo naufragio, di questa vicenda della Costa Concordia. Storia, dice il Secolo XIX, storia di inchini e di giganti. Tra l'altro, curiosamente, una cosa che viene ricordata da questo quartino, così si chiamano in gergo, insomma, questo blocco di quattro pagine che oggi si presenta come prima pagina del Secolo XIX, questo quartino ricorda che il 2 settembre del 2005, quando fu varata la Costa Concordia, non si ruppe la bottiglia di spumante che viene abitualmente tirata sulla prua. Questo è considerato nelle superstizioni marinare un cattivo presagio. Però, scrive sempre il Secolo XIX, la nave era bellissima, quindi nessuno ci fece caso più di tanto. E poi, naturalmente, le cose che sappiamo, e anche una scheda che ci informa che questo disastro è costato 400 milioni di euro per quanto riguarda la perdita della nave, 600 milioni di euro per quanto riguarda le operazioni di recupero. Praticamente tutto l'impatto di questa vicenda è di 1,5 miliardi. Pagheranno, lo scrivono appunto sul Secolo XIX, le assicurazioni. Il costo dell'incidente peserà in ogni caso sulla polizza pagata dall'armatore, da Carnival, nei prossimi anni. In questo momento La Concordia è invece di proprietà dell'Associazione Temporanea di Imprese Saipem San Giorgio, alla quale è stata ceduta da Costa al valore simbolico di un euro. Si calcola che i rottami della Concordia smantellata potranno valere 350 euro a tonnellata, quindi si possa ricavare, insomma, facendo una stima grossolana, circa 7 milioni di euro rispetto appunto al 1,5 miliardi di cui vi davo notizia. Chiaramente c'è una sproporzione notevole. Sempre su questa vicenda della Concordia, che ripeto domani è attesa rientro in porto, anche poi i tratti salienti, ricorderete, del naufragio con il schettino che abbandona, che lascia la nave, e questa conversazione che poi ha fatto epoca in qualche modo, in cui veniva invitato anche bruscamente a ritornare a bordo, invito che però lui, come sappiamo, disattese. Cambiamo decisamente argomento e ritorniamo sul Sole 24 Ore per dare notizie invece del decreto competitività, che ieri, decreto legge dedicato alla competitività, che è stato approvato dal Senato e che ora passerà alla Camera per il voto definitivo. Allora, fisco, incentivi, credito e borsa, le novità per le imprese: diventerà più facile avviare un'azienda e ci sarà una doppia soglia per le OPA, per appunto le offerte di acquisto. Subito in pensione 4.000 insegnanti è l'altro titolo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, perché in un altro decreto, quello dedicato alla pubblica amministrazione, oltre al cambio di regole per i concorsi universitari, sono state individuate le modalità per mandare in pensione i 4.000 insegnanti che sono, qualcuno forse lo ricorderà, quelli rimasti intrappolati dal varo della riforma Fornero. Questo appunto una delle novità della riforma del decreto dedicato alla pubblica amministrazione. Oggi sul Sole 24 Ore, nelle pagine interne, tutte le novità del decreto, del primo dei due decreti, quello dedicato alla competitività, quindi con appunto innovazioni che riguardano ad esempio il bonus per l'acquisto di macchinari, gli incentivi per la capitalizzazione, ma anche misure più, come dire, di impatto generale. Ad esempio, per i turisti europei si prevede un cambiamento nell'uso del contante, non ci sarà più un limite, un tetto appunto agli acquisti dei turisti comunitari attualmente fissato 15.000 euro, varranno le regole che ciascuno si porta dal proprio stato di residenza. Quindi questo viene inteso come misura per ridare slancio all'economia del commercio al dettaglio. Naturalmente poi si toccherà ai commercianti, quando questa misura sarà definitivamente applicata, avere anche una certa preparazione sui limiti diversi di contante previsti nei vari stati europei. Ci sarà poi una gara, così leggo veramente qua e là dalle molte schede che spiegano questo provvedimento oggi sul Sole 24 Ore, ci sarà una gara europea a giugno del prossimo anno per rifare il Sistri. Chi in qualche modo è coinvolto dal punto di vista lavorativo sa bene di cosa si tratta: è questo sistema elettronico per la tracciabilità dei rifiuti, sistema che non riesce a trovare una sua fisionomia e, come dire, singhiozza di proroga in proroga cercando sempre di trovare un modo per partire. Per quanto riguarda poi l'anatocismo è la pratica di applicare interessi sopra agli interessi. Ricorderete che era stato in qualche modo reintrodotto dalla prima versione del decreto, ora sparirà dalla definitiva versione del decreto. Ci spiega Gianni Trovati sul Sole 24 Ore: con il voto del Senato l'anatocismo sparisce di nuovo dai testi di legge, e anche perché il passaggio alla Camera non offrirà novità. Ora però l'anatocismo deve sparire anche dalla realtà, perché la sua cancellazione, che è imposta dall'ultima legge di stabilità, deve ancora essere attuata. Come sapete, una doglianza abituale per quanto riguarda le nostre innovazioni normative, la mancanza poi di attuazione, cioè l'effetto che le norme restino un po' lettera morta perché mancano le disposizioni regolamentari. Un passaggio veloce per le pensioni degli insegnanti: è stata ripristinata la quota 96, cioè quella somma di età anagrafica e di anni di contributi per questi 4.000 insegnanti, che quindi potranno andare in pensione da subito grazie appunto al ritorno di questa quota. I dettagli sul decreto dedicato alla pubblica amministrazione sono raccontati oggi sul Sole 24 Ore da Eugenio Bruno e Claudio Tucci. E poi una notizia che riguarda invece più da vicino le questioni fiscali, Radio Fisco, in qualche modo c'è la proroga del 770, è stata prevista il 19 di settembre, ma bisogna aspettare il varo del decreto anche qui, però la proroga sostanzialmente è confermata, quindi ci sarà, ci sarà la scadenza della fine di luglio. Spiega Francesca Milano oggi sul Sole 24 Ore: per il modello 770 arriva la proroga il 19 settembre, il termine sarà posticipato appunto a questo venerdì di settembre, è la data individuata e dal Ministero confermano l'accordo trovato, sottolineando però che per l'ufficializzazione della proroga bisognerà attendere il decreto, che dovrà essere firmato nei prossimi giorni dal ministro dell'economia Piercarlo Paduan, di ritorno dalla Cina, dove ieri appunto ha concluso una missione di rafforzamento delle relazioni bilaterali nel campo economico. Il decreto passerà al presidente del Consiglio Matteo Renzi per lo step conclusivo. Comunque è probabile che lunedì o martedì arrivi magari un comunicato ufficiale, perlomeno quello dal Ministero, per confermare la decisione di disporre la proroga per il modello 770. È stato un po' il tormentone di questi giorni, e anche per chi ascolta abitualmente la rassegna stampa gestita, tenuta e condotta da Alessandro Milan, è stato anche un po' il tormentone delle segnalazioni dal Sole 24 Ore. Un'ultima segnalazione al Sole 24 Ore, il lungo articolo di Paolo Bricco che è dedicato all'Ilva, perché sono oggi 2 anni dal sequestro, dal fermo dell'impianto. E allora Paolo Bricco racconta da Taranto cosa è cambiato, che cos'è adesso l'Ilva, che cos'è questo enorme impianto siderurgico 2 anni dopo, il gigante che si è addormentato, così scrive Paolo Bricco, a 2 anni esatti dagli arresti e dal sequestro dell'area a caldo. Il maggior organismo industriale italiano, ereditato dell'economia pubblica nella forma delle privatizzazioni di metà anni 90, ha ridotto ormai le sue funzioni vitali al minimo, la produzione è al di sotto anche del livello di pareggio possibile per quanto riguarda la lavorazione dell'impianto. Il lungo racconto oggi, il lungo bel racconto di Paolo Bricco sul Sole 24 Ore di questa mattina. Nella notte di Taranto il gigante dorme, questo il titolo dell'articolo di Paolo Bricco. Vorrei cambiare ulteriormente argomento in questi pochi minuti che ci rimangono. Vi segnalo dal giornale la lettera di Berlusconi per riunire il centrodestra, non un mero cartello elettorale ma vera condivisione di obiettivi, c'è questa iniziativa. Il giornale riporta proprio una lettera, la lettera di Silvio Berlusconi che è stata inviata ai leader dei partiti del centrodestra, primo passo, così si spiega, per riunificare l'area politica alternativa alla sinistra, reduce da divisioni e da personalismi. E poi sempre dal giornale un commento, una sorta di ulteriore editoriale affidato a Vittorio Feltri: il mondo esplode, in Italia si perde tempo. Feltri si occupa della questione medio orientale, ne parlavamo all'inizio di questa nostra rassegna stampa, e Feltri appunto ci segnala l'indifferenza per quanto avviene nel vicino Oriente, indifferenza che, scrive, è un segnale allarmante di impotenza se non di indolenza, nulla ormai sembra più in grado di far breccia nelle nostre piccole e grandi preoccupazioni create dalla crisi economica, e così siamo vittime e artefici di una disinformazione che distorce la realtà e ci stordisce a forza di luoghi comuni spacciati per verità. Luoghi comuni appunto spacciati per verità, tra cui Feltri ricorda ad esempio anche l'inutilità in qualche modo verificata della guerra all'Iraq di Saddam, la situazione in cui è precipitata la Libia dopo l'intervento per abbattere peraltro la dittatura sanguinosa di Gheddafi, ma che attualmente appunto questo paese si trova in condizioni quasi peggiori rispetto a prima, nel senso che si trova nel disordine più totale. La Libia, scrive Feltri, una fogna a cielo aperto. In Afghanistan, scrive ancora Feltri, si combatte in ininterrottamente da oltre un decennio non si è risolto nulla. In compenso ci hanno lasciato le penne migliaia di soldati, parecchi italiani inclusi. Sarà anche vero che certi conflitti armati sono indispensabili per dirimere contenziosi altrimenti destinati a marcire a perpetuarsi, e sarebbe stato difficile far sloggiare Adolf Hitler e le sue soldataglie con metodi cortesi. Ma nei casi citati sopra i cannoni sono serviti solamente a spararci sui piedi, lasciando immutato il contesto che presuntuosamente intendevamo modificare per adeguarlo agli stili occidentali. Così Feltri oggi, il mondo esplode e in Italia si perde tempo su Il Giornale. Chiudo con una segnalazione direi doverosa a questo punto per Nibali. Domani attendiamo tutti Nibali, non diciamo nulla per totale scaramanzia. Nibali a Parigi, Nibali la crono per stupire ancora, voglio onorare la maglia gialla sulla Gazzetta dello Sport di oggi. Nibali no limits è il titolo interno, cronometro a tutta per onorare la maglia, si riferisce alla tappa di oggi. Il leader non è sazio, nessun rischio, si corre da soli, voglio andare forte, e noi glielo auguriamo. Grazie di aver seguito la nostra rassegna stampa, grazie a Pietro Lacorte per l'assistenza in regia, e una buona giornata a tutti da Mauro Meazza.